Il punto di Stefano Folli. Una delle eredità che Napolitano lascerà fra pochi mesi al suo successore sarà il difficile e spesso conflittuale rapporto fra politica e magistratura. Ritrovare un equilibrio equivale a restituire certezze ai cittadini. Insomma, un obiettivo storico, se mai si riuscirà a ottenerlo. Vorrà dire avere forse una giustizia che funziona e che produce sentenze in un lasso di tempo ragionevole, come nel resto d'Europa, non solo inchieste spettacolo e processi mediatici, quindi quasi sempre virtuali. Nelle parole di ieri del Presidente della Repubblica c'era tutto questo, e c'era tanta amarezza dovuta agli attacchi subiti dopo la vicenda delle intercettazioni disposte dalla Procura di Palermo. Napolitano ha svolto il suo mandato nel modo più rigoroso in questi anni e i tentativi di coinvolgerlo in vicende oscure con sospetti e insinuazioni senza fondamento la dice lunga sullo stato della giustizia nel nostro paese. Non aver saputo o voluto ammodernare il sistema giudiziario è una delle ragioni della perdita di credibilità del sistema politico.